Simone Spezia. Dopo quelli americani iniziano anche i raid francesi sull'Iraq, colpito un deposito logistico degli jihadisti di ISIS. La Scozia dunque non sarà indipendente, ma Cameron promette maggiore autonomia a tutte e quattro le nazioni della Gran Bretagna, quindi anche Galles, Irlanda del Nord e la stessa Inghilterra. G8 e appalti, 13 milioni di euro sequestrati all'ex presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici Balducci. Ci sono case, quote societarie, conti bancari. Sparatoria a Milano nella notte davanti all'ospedale Galeazzi. Due morti, un ferito, fermato un sospetto. Si tratterebbe di un regolamento di conti. Arrestato il latitante che era sullo scooter con Davide Bifolco, il 17enne ucciso a Napoli da un carabiniere. Là il sindaco De Magistris vuole allestire un luogo della memoria. Ne parleremo con lui. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre, Effetto Giorno, @radio24.it per scriverci durante la trasmissione, il 349-238-6666. Dunque, in apertura andiamo in Iraq, o meglio, in Francia. Sono iniziati i raid di Parigi sul paese. La Francia ha iniziato i bombardamenti in Iraq contro gli estremisti dello Stato Islamico. Questa mattina alle 9.40 dei caccia Rafale decollati dalla base di Al Dhafra negli Emirati Arabi Uniti hanno colpito e distrutto, come ha annunciato una nota dell'Eliseo, un deposito logistico dei terroristi Daesh nel nord-est del paese. Altre operazioni, aggiunge l'Eliseo, verranno realizzate nei prossimi giorni. A poco più di 12 ore dall'annuncio del presidente François Hollande di una partecipazione diretta nella guerra all'ISIS, la Francia diventa quindi il primo paese a schierarsi operativamente a fianco degli Stati Uniti. Anche se Hollande ha chiarito che non ci saranno interventi di truppe a terra e neppure incursioni aeree in Siria. Marco Mussanè, Radio 24 e Sole 24 Ore, Parigi. E ora torniamo sul referendum in Scozia, è la notizia del giorno, i no che hanno vinto, sentiamo dunque quali sono i risultati finali e le prime reazioni dalla Gran Bretagna stessa e dall'Europa. Cosa succede adesso? Ecco la domanda del giorno per gli scozzesi che si sono svegliati con un dato inequivocabile, affluenza record, l'85%, è una vittoria netta degli unionisti. I sostenitori del fucking London, espressione forte ma tra le più usate da coloro che hanno votato sì all'indipendenza, si sono fermati al 44,7%, con il 55,3% degli scozzesi che ha invece deciso di restare nella Gran Bretagna. La questione è risolta per una generazione, ha detto il primo ministro britannico in una dichiarazione a Downing Street. Non ci sono discussioni, non ci sono ripetizioni. Il primo ministro inglese da questo voto esce certamente più forte, avendoci messo la faccia, pur rischiando di svegliarsi oggi come il premier passato alla storia, come colui che aveva perso la Scozia dopo 307 anni di unità. Così non è stato. Potevamo provare a bloccarlo, potevamo evitare la consultazione, abbiamo preferito ascoltare la risposta, sì o no, a quel referendum voluto dallo Scottish National Party nel 2010. D'accanto suo il leader indipendentista Alex Solomon ha accettato il responso del referendum, ma promette che la battaglia per avere maggiori poteri e per non far naufragare i moti di indipendenza scozzesi proseguiranno. Secondo Salmond, il voto evidenzia una voglia che gli scozzesi hanno mostrato, per esempio a Glasgow, dove il sì ha vinto nettamente, quella voglia di essere più responsabili di se stessi e meno succubi delle decisioni prese a Westminster. Cameron ha salutato l'esercizio democratico e ribadisce la promessa di maggiori poteri, non solo alla Scozia, ma anche alle altre nazioni che compongono il Regno Unito, Inghilterra, Galles e anche Irlanda del Nord. Ancora da definire in che misura i paesi rimasti sotto la regina e sotto il potere di legiferare di Westminster potranno beneficiare di queste concessioni che vanno dall'autonomia di decidere il budget sulla sanità all'organizzazione del welfare state. Bruxelles tira un sospiro di sollievo, ma a Edimburgo le domande sono ancora moltissime. Francesco De Remigis, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Edimburgo. La prima risposta dei mercati alla vittoria del no in Scozia è un balzo in avanti, anche se a dire il vero le piazze finanziarie fin da ieri pomeriggio avevano cominciato a scommettere proprio sul successo degli unionisti. La sterlina era già salita ai massimi. Oggi, dopo aver scongiurato il pericolo, il primo a parlare di sollievo è stato il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz. preoccupato anche dalle spinte secessioniste che da Edimburgo avrebbero potuto dilagare nel vecchio continente. Questo risultato è un bene per l'Europa unita, aperta e più forte, sostenuta da Bruxelles. Così il presidente della Commissione Barroso, che ha messo l'accento anche sull'impegno europeo da sempre dichiarato dai separatisti scozzesi. Un aspetto su cui ha puntato anche il socialista francese Moscovici, titolare della delega agli affari economici della Commissione. Il voto scozzese dà il via libera a un Regno Unito in un'Europa unita. Ma il più sollevato è stato forse il premier spagnolo. Il governo di Madrid è molto felice, ha dichiarato Rajoy, che si oppone alla consultazione popolare, simile a quella scozzese, che il governo regionale della Catalogna vorrebbe organizzare per il prossimo 9 novembre. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come sapete, c'è anche qualcuno che in Italia ha guardato con molta attenzione a questo referendum in Scozia. Naturalmente ci riferiamo alla Lega Nord. La nostra Alessandra Schepisi ha intervistato poco fa il leader leghista Matteo Salvini. Sentiamo. Segretario, lei è appena tornato ad Edimburgo, ieri aveva detto vado in Scozia per la festa della democrazia. Oggi, dopo la sconfitta del sì, ci può dire che aria si respirava in Scozia? Un'aria stupenda di partecipazione, soprattutto migliaia e migliaia di giovani che erano in piazza e in maniera civile si confrontavano le opposte idee. Hanno vinto sulla carta i no, però è un successo comunque. A, perché il popolo ha potuto scegliere. B, perché Londra è stata costretta a concedere agli scozzesi soldi, potere, autonomia e competenza in più. Quindi una lezione da tutti i punti di vista che vale sia per l'Europa che per l'Italia. E in Italia quando si arriverà ad un referendum del genere? Ma la Regione Veneto ha già approvato la richiesta per un referendum o per l'autonomia statuto speciale o per l'indipendenza. Il governo di Roma sta dicendo di no, però non capisco perché la regina Elisabetta faccia votare i suoi sudditi mentre il presidente Napolitano i sudditi italiani non li voglia far votare. L'effetto Salvini nel referendum scozzese si è visto, ha commentato ironicamente poco fa su Twitter Dario Ginefra, deputato del PD. Come risponde? L'ironia fa sempre bene. Io, se fossi un deputato del PD, mi preoccuperei della situazione economica italiana disastrosa e del nulla che Renzi sta facendo in questi mesi, più che scherzare. E veniamo proprio alla situazione economica e veniamo dunque all'Italia. L'attenzione resta concentrata naturalmente sulla riforma del mercato del lavoro e anche sugli statali che hanno annunciato uno sciopero. Vincenzo Miglietta, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. È così dibattito sulla riforma del mercato del lavoro che si consuma quasi tutto all'interno del Partito Democratico. Ieri le critiche della cosiddetta minoranza, tra gli altri il presidente Orfini che ha chiesto correzioni al provvedimento, di intenzioni surreali del governo nella riforma ha parlato Bersani. Oggi a replicare la componente vicina al presidente del Consiglio Renzi, a partire dal vice segretario PD Deborah Serracchiani, che spiega: nel testo attuale il contratto a tutele crescenti non contiene la previsione della reintegra, ma questo non vuol dire che non possa contenerla nelle prossime versioni. E questo è il punto centrale della polemica, Simone: la permanenza o meno nella normativa del reintegro in caso di licenziamento discriminatorio. A gettare acqua sul fuoco è anche il responsabile economia del PD Taddei. Il governo punta ad approvare la delega entro l'8 ottobre al Senato, no dunque alla decretazione d'urgenza. Del Jobs Act e delle polemiche del sindacato ha parlato intanto questa mattina a Mix 24 il senatore giuslavorista di Scelta Civica Pietro Ichino. Sentiamo. Bisogna farla se i sindacati non capiscono l'importanza. Quindi si può fare anche senza. Bisogna farla e sapendo poi che una volta fatta, nessuno proporrà di tornare indietro. E chiudiamo, Simone, proprio con il sindacato. Manifestazione nazionale unitaria degli statali l'8 novembre. È tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Veniamo alla cronaca. Torna in primo piano l'inchiesta sul G8 e grandi appalti. All'ex provveditore lavori pubblici Angelo Balducci, ex provveditore lavori pubblici di Roma, sono stati sequestrati 13 milioni di euro. A questo è dedicata l'inchiesta di oggi di Daniele Biacchessi. Sappiamo molto sull'ex provveditore alle opere pubbliche di Roma e presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Angelo Balducci. I magistrati di Perugia, Roma e Firenze nei loro atti di accusa lo considerano la mente presidente della cosiddetta cricca degli appalti per i lavori di grandi eventi come i mondiali di nuoto del 2009, il vertice G8 all'Isola della Maddalena, le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Praticamente il re di un sistema in funzione dal 1999 che consentiva l'assegnazione di commesse ad un numero ristretto ed esclusivo di imprese, soprattutto quelle dell'imprenditore Diego Anemone, attraverso la dazione di tangenti mascherate da un giro vorticoso di fatture false. La Guardia di Finanza ha confiscato a Balducci beni per un valore complessivo di 13 milioni di euro. In sostanza Balducci aveva tratto profitti ingenti da quel sistema che lui stesso aveva creato e poi perfezionato nel tempo. Immobili di lusso come l'abitazione romana dei Balducci, appartamenti sulle Dolomiti in provincia di Pesaro, un lussuoso casale con piscina e terreni a Montepulciano, conti bancari, automobili, quote del capitale della società di produzione cinematografica Edelweiss Production SRL che realizzava film, guarda un po', interpretati da Lorenzo Balducci, il figlio dello stesso Angelo. Per il Tribunale di Roma il capo della cricca è un soggetto pericoloso, in grado ancora di delinquere e per 3 anni resta sorvegliato speciale con l'obbligo di non uscire dalla capitale. Per Balducci, abituato ad una vita di altissimo livello, è oggi un durissimo colpo. La cronaca nera ci racconta di una sparatoria nella notte a Milano. Proiettili a terra, tanti. Colpi di pistola senza sosta. Una BMW bianca che sfreccia per le strade, le sgommate a terra e i cadaveri. Siamo nella periferia nord di Milano. È la scena a cui assistono alcuni abitanti di Bruzzano ieri all'ora di cena, di fronte all'ospedale Galeazzi. Pare si sia trattato di un regolamento di conti, ma i carabinieri stanno ancora ricostruendo l'accaduto. I testimoni, terrorizzati, raccontano di una BMW che sfreccia per le strade seminando il panico. Quando si ferma, dall'auto vengono esplosi 3 colpi che arrivano dritto alla testa e alla schiena di un primo uomo, morto. L'auto riparte, imbocca un'altra strada e di nuovo 5 colpi, il secondo cadavere a terra. Il raid punitivo prosegue, raggiunge una terza persona. Ancora spari. La vittima viene colpita alle gambe ma non muore. I killer fuggono via ed abbandonano la macchina nelle vicinanze, di fretta, con 2 ruote sopra il marciapiedi. Chi ha assistito alla scena chiama le forze dell'ordine e un'ambulanza. L'uomo gambizzato viene trasportato in ospedale, è in codice rosso ma non è in pericolo di vita. I carabinieri blindano la zona, raccolgono informazioni, cercano di capire la dinamica di quei minuti di precisione omicida. Dai primi rilievi, dei proiettili vaganti hanno perforato le auto di alcuni passanti. Nessun altro ferito per una sparatoria che poteva finire in modo molto più tragico. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora 2 storie di cronaca italiana, innanzitutto una che arriva dalla periferia di Roma, da Tor Pignattara, dove un ragazzo straniero di 28 anni è stato picchiato a morte da uno di 17 durante una lite in strada la scorsa notte. Il 17enne romano è stato fermato dai carabinieri, l'accusa di omicidio preterintenzionale. L'altra è una notizia di poco fa, un sacerdote che nei giorni scorsi aveva denunciato di essere stato vittima di un ricatto a luci rosse da parte di uno straniero è stato trovato morto questa mattina, siamo a appunto nel Perugino. Secondo una prima ipotesi dei carabinieri si sarebbe tolto la vita. E ora ci occupiamo di Ebola. 2 le notizie, un massacro in Guinea e l'ONU che interviene. Si trovavano nel villaggio di Womé per una campagna di sensibilizzazione sui pericoli dell'epidemia di Ebola. 7 operatori, forse 8 secondo alcune fonti, sono stati uccisi a colpi di macete con armi da fuoco. Tra loro ci sarebbero anche 3 giornalisti, fa sapere il governo di Conakry. La campagna sanitaria internazionale ha suscitato la diffidenza, il rifiuto e talvolta l'opposizione violenta di parte della popolazione locale. Ma si tratta del primo episodio di omicidio. Sempre in Guinea, lo scorso mese, alcuni medici erano stati aggrediti da un gruppo di uomini che li accusavano di spargere al virus. Un'epidemia, quella di Ebola, che in Africa occidentale, soprattutto in Guinea, Liberia e Sierra Leone, ha provocato la morte di 2.622 persone. Miriam Corgia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. The Ebola crisis has evolved into a complex emergency with a significant political, social, economic, humanitarian and security dimensions. Un'emergenza sanitaria che è ormai crisi umanitaria, sociale, economica e una minaccia per pace e sicurezza internazionale. Il segretario dell'ONU Ban Ki-moon accoglie in pieno la tesi già espressa dal presidente americano Obama di fronte alla minaccia del virus Ebola e ribadita nella sede del Palazzo di Vetro dal direttore dell'OMS Margaret Chan. Un'emergenza di fronte alla quale il mondo non può più attendere, dice l'ONU. Il Consiglio di sicurezza ha adottato all'unanimità una risoluzione che chiede di non isolare i paesi colpiti colpiti. Tra i co-sponsor del documento c'è anche l'Italia. Le Nazioni Unite creeranno una missione speciale di emergenza per contrastare il virus, inviando personale nei paesi più colpiti, Sierra Leone, Guinea e Liberia. E nello stesso tempo l'invito è ad abolire le restrizioni sui viaggi e alle frontiere imposte a causa dell'Ebola, non solo controproducenti, ma che contribuiscono, secondo l'OMS, invece a un ulteriore isolamento dei paesi colpiti. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Dopo il no alla secessione della Scozia, Cameron promette maggiore autonomia anche a Galles e Irlanda del Nord. Sono iniziati anche i raid francesi sull'Iraq, colpito questa mattina un deposito logistico degli jihadisti di ISIS. Aveva denunciato un ricatto a luci rosse e trovato morto un sacerdote nel Perugino, si sarebbe tolto la vita. G8 e appalti, 13 milioni di euro sequestrati all'ex presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici Balducci, ci sono case, quote societarie e conti bancari. In apertura di questa seconda parte di Effetto Giorno andiamo a Napoli, innanzitutto con la cronaca di oggi, dove è stato arrestato a Napoli il latitante che si trovava sullo scooter con Davide Bifolco, ucciso da un carabiniere. Arturo Equabile, 23 anni, è stato arrestato a Casoria, nel Napoletano, mentre era in auto con un amico e stava raggiungendo la fidanzata. Secondo i carabinieri, era lui a bordo dello scooter con il 17enne Davide Bifolco al Rione Traiano, prima del colpo di pistola esploso da un militare che ha ferito a morte venerdì 5 settembre il ragazzo. Equabile era latitante dallo scorso febbraio e doveva scontare una pena per reati contro il patrimonio. In un'intervista rilasciata dopo il fatto, Equabile sosteneva di non essere lui la persona sul motorino inseguito dalla pattuglia e ancora di non aver commesso alcun tipo di reato. In nottata il latitante sarà trasferito al carcere napoletano di Poggio Reale. Carmelo Prestisimone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno, grazie. Salve. Abbiamo letto che lei vuole fare un... Se ho capito bene, lo ha chiamato luogo della memoria nel posto dove Davide Bifolco è stato raggiunto dai colpi di pistola del carabiniere e poi è morto. Chiariamo bene, gli amici e i familiari di Davide nel luogo in cui è stato sparato vogliono lasciare una traccia di quello che è accaduto. Noi abbiamo detto che tutto questo si può fare, ma in un percorso di legalità. E l'idea che è venuto fuori dalle persone del posto è quello di avere in affidamento le aiuole in cui è accaduto il fatto. E noi abbiamo apprezzato moltissimo questa iniziativa e quindi formalmente, come spesso accade nella nostra città, che sono circa 200 i luoghi adottati di Napoli da parte dei cittadini e le associazioni, si sta seguendo questo percorso in modo che sarà un luogo dove gli amici, i familiari, le persone del rione che ritengono hanno un punto dove andare a pregare, a pensare e a riflettere. E sa che c'è qualcuno che oggi titola e dice De Magistris vuole fare una sorta di monumento a Davide Bifolco? Senta, a me questa polemica la trovo veramente becera, mi perdoni. Di monumento non ha mai parlato nessuno, se non qualche persona, diciamo, che alimenta solo il gusto della polemica. Quando ci sono tragedie di questo tipo bisogna agire col buon senso. Vede, a Napoli oggi è San Gennaro, è festa, è il nostro patrono. Quello che noi abbiamo detto oggi tutti, che nei momenti difficili bisogna stare soprattutto dalla parte di chi soffre, chi ha perso un figlio ha avuto una tragedia, e soprattutto le istituzioni, il sindaco oppure il parroco, le forze dell'ordine, devono stare anche nei luoghi difficili per cercare di evitare che ci sia solamente la camorra, che non ci siano alternative, quindi andare lì e dimostrare che insieme alla delinquenza organizzata, che spesso si fa avanti in questi casi, c'è anche lo Stato, in modo da far comprendere che si può scegliere tra criminale organizzato e Stato. Però è vero, però monumento verrà fatto, guardi, non si preoccupi. Però sindaco, lei capisce che questo discorso sul luogo della memoria si presta comunque ad una lettura ambigua, insomma, no? Perché pur riconoscendo la tragedia della famiglia di Davide Bifolco, c'è dall'altra parte appunto un carabiniere, c'è la vicenda di tre persone che viaggiavano in scooter, tra cui un latitante, eccetera, eccetera. Quindi capisce che si presta a delle ambiguità questa cosa. Guardi, capisce, lei sta parlando con una persona che per 15 anni ha fatto il magistrato ed è stato più con i carabinieri che con i poliziotti e con mia moglie e i miei figli. Quindi io so perfettamente come sono queste dinamiche, so che qui non è in atto un atteggiamento di sfiducia e di attacco ai carabinieri che hanno la massima fiducia. Qui c'è una tragedia, un ragazzo che è morto, un impegno costante delle forze dell'ordine e la magistratura che deve fare luce. Poi il resto sono polemiche. Queste vicende accadono purtroppo in tutta Italia. Quando accadono a Napoli non si sa perché debbano assumere per forza il luogo della tragedia, della commedia, della farsa, della polemica. E noi semplicemente chiediamo alla magistratura di fare giustizia. Siamo vicino ai carabinieri, ai poliziotti, ai finanzieri, alla polizia municipale, che ogni giorno fa un lavoro difficilissimo in una città complicatissima, e siamo vicini, se mi consenta, a dei genitori, a una famiglia che hanno perso comunque sia andata, un ragazzo di 17 anni. Io in questi casi, pur avendo fatto il magistrato di 15 anni, so fare una gerarchia delle sofferenze. In questo momento la perdita di un figlio è per me la sofferenza più grande, e da uomo delle istituzioni, da sindaco, da cittadino napoletano, voglio tendere la mano dello Stato a queste persone per far comprendere qual è la strada che devono seguire nel futuro. Ultima domanda, che in realtà ci arriva da un ascoltatore: ma perché non un luogo della memoria per le vittime della Camorra? Guardi, questo signore venga a Napoli, troverà decine di luoghi della memoria per la Camorra, a cominciare dal giardino che si trova di fronte Palazzo San Giacomo, dalla sede del municipio che è dedicata a Falcone e Borsellino, alle donne e gli uomini della scorta e a tutte le vittime di mafia e della Camorra. Napoli è una città dell'anticamorra e della legalità, quindi questo non è il luogo della memoria come o il mausoleo che fa ricordare il film di Totò quando parlava di puttini, non è questo, è semplicemente un'aiuola dove magari gli amici e la famiglia del luogo in cui è morto un loro caro vogliono andare a pregare, una cosa molto più semplice di quella che qualcuno vuole descrivere. Grazie Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, per essere stato con noi, e saluto Maria Cecilia Guerra, senatrice del PD, fa parte della commissione lavoro. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Come giudica il testo della delega? Il testo della delega nel suo complesso è molto importante, perché affronta sotto i profili principali i temi che devono essere affrontati, cercando soluzioni che cercano di andare incontro ai problemi che il mercato del lavoro sta ponendo. Lei sa però, senatrice, sono stato generico, ma parlavo ovviamente dell'articolo 18. Lei parla dell'articolo 18, allora va precisato che questo è solo un piccolo punto molto importante di quella delega. Su quello ho delle perplessità, perché l'articolo 18 non viene citato nella delega, ma si prevede l'introduzione di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio per le nuove assunzioni. Quindi l'idea è che non si precisa in questa dizione troppo ampia, a mio avviso, della delega, il fatto che le tutele sono crescenti, quindi uno viene assunto con un contratto di lavoro tempo indeterminato per alcuni anni, cioè in un periodo di prova in cui si stabilisce il rapporto fiduciario col datore di lavoro, non gode delle piene tutele, ma passato questo periodo deve, a mio avviso, accedere alle piene tutele, che sono quelle attualmente previste nell'articolo 18. Il testo della delega, così come adesso, è troppo ampio e fa pensare che invece lo si voglia superare, cioè si voglia superare la tutela ammessa dall'articolo 18 per quanto riguarda in particolare l'aspetto fondamentale della reintegrazione nel posto di lavoro qualora si sia licenziati per ingiusti motivi. C'è una componente del Partito Democratico, della quale mi sembra di capire lei fa parte, che su questo intende lavorare piuttosto intensamente, immagino anche a livello parlamentare. Intendete introdurre delle regole più stringenti già solo dalla delega? Perché Poletti ha detto questa sarà materia, cioè quando scatta la tutela piena, il momento nel quale scatta la tutela piena per questo contratto a tutele crescenti, ossia dopo quanto tempo dall'assunzione, di fatto sarà una questione che sarà decisa nei cosiddetti decreti delegati, no? Quando poi la delega di fatto viene approvata dal Parlamento, diventa operativa, il governo deve legiferare. Avete intenzione di lavorare sul rendere più stringenti, come dire, questi tempi, e più stringente la delega? Ma sicuramente la delega è uno strumento attraverso il quale il Parlamento delega alla sua funzione, che è quella legislativa, il governo, ma lo deve fare sulla base dei principi che facciano capire che cosa vuole. Il principio come è scritto adesso lascia aperto interpretazioni opposte. Per esempio, secondo Sacconi, il principio come è scritto adesso significa che non ci sarà più la possibilità di reintegro, ci sarà solo l'indennizzo, mentre invece ovviamente questo è un nodo che va sciolto. Io penso che la facoltà, la possibilità possibilità di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro quando ingiustamente licenziato, che è una facoltà che esiste in tutti i principali paesi, prima di tutto la Germania, deve essere mantenuta anche per il nostro paese. Questo va scritto a chiare lettere. Che poi scatti dopo 2 anni, 3 anni, 4 anni, questo può essere lasciato anche al decreto legislativo. Così com'è non lo vota, senatrice? Guardi, io non sono neanche in commissione lavoro, ovviamente le dinamiche del Parlamento sono dinamiche che non riguardano neanche il singolo parlamentare, ma anche il gruppo nel suo complesso. Credo che ci sia assolutamente spazio non per una guerra di religione, ma per mettere questi principi e confrontarsi, perché a me interessa che il mio partito su questo tema si esprima in modo esplicito. Ma se il gruppo, mi scusi senatrice, ma se il gruppo decide di votarlo così, a maggioranza, lei lo vota oppure no? Guardi, di solito la disciplina del gruppo si segue, però qui ci sono tanti temi aperti, c'è spazio ancora per cercare un confronto, non credo che non me lo vuole nessuno. Dire, non me lo vuole dire. No, ma non lo voglio dire perché non è mai una decisione individuale, capisce? Cioè, questa è una battaglia che si fa assieme, si vede che consenso si ha e dopo si decide, non lo voglio dire solo per questo, ma sicuramente le voglio dire, io lavorerò con altri a presentare in aula degli emendamenti perché il principio che ritengo sacrosanto sia esplicitato anche nella delega, e cioè che venga mantenuto anche per i lavoratori di nuova assunzione questo diritto al reintegro in caso di, ripeto, ingiusta sancita dal giudice, ingiusta causa del licenziamento, e credo che su questo ci sarà un consenso piuttosto ampio. La ringrazio, grazie a Maria Cecilia Guerra, senatrice del Partito Democratico, appunto con la quale abbiamo parlato di lavoro, e tra l'altro un economista. A Sandro che ci dice: ma cosa significa in pratica tutela crescente? Rispondiamo: vuol dire semplicemente che nel momento nel quale uno viene assunto ha un po' meno garanzie, e piano piano nel corso dei mesi piuttosto che degli anni queste garanzie crescono fino ad avere in sostanza le stesse garanzie che hanno i lavoratori assunti col vecchio metodo, per così dire. Leonardo Maizano del Sole 24 Ore, corrispondente a Londra, l'abbiamo già sentito ieri e sapete che è ad Edimburgo. Leonardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, scatta una devolution per tutte le componenti del Regno Unito, mi sembra di capire, o almeno queste sono le intenzioni di Cameron alla luce di questo voto che è stato abbastanza netto. È vero però che un 40% degli scozzesi ha votato a favore dell'indipendenza. Assolutamente sì, 45%, quindi è stato netto, ma è stato, come dire, in linea con i sondaggi delle ultime settimane, non con quelli dei mesi precedenti che davano scarti del 10-15%. Quindi c'è stato uno spostamento nettamente a favore dell'indipendenza. Questo perché la campagna è stata elettorale, la campagna referendaria è stata presa largamente sotto gamba dal governo, che si sentiva certo di poter vincere. Non è così, in Scozia resta un profondo sentimento indipendentista e anche una ragionevole cautela nel poi non fare il passo estremo, ma come dire, utilizzare quel voto strategico, mettere pressione per ottenere più potere. Ecco Leonardo, proprio su questo ti volevo, perché viste le promesse che ha fatto il governo Cameron nelle ultime settimane, alcune anche un po' disperate, no? Un po' troppo a ridosso del voto forse, in realtà probabilmente gli indipendentisti, se non hanno ottenuto il risultato pieno, un bel po' di risultati li hanno portati a casa. No, assolutamente sì, cioè gli indipendentisti non hanno fatto il risultato pieno, come giustamente notavi, però portano a casa un risultato molto importante, anche perché la questione dell'indipendenza scozzese, che se ne dica, non è seppellita per sempre, perché i numeri indicano che questa volontà c'è. Intanto porteranno a casa molta più devolution, molta più autonomia, e innescheranno quel processo importante che l'Inghilterra non può più rinviare, che è quello di dare maggiore autonomia a tutto il paese, Inghilterra compresa. Cioè, c'è una forma di centralismo eccessivo nell'amministrazione britannica, e da questo punto di vista il voto scozzese ha dato una scossa. Allora, grazie a Leonardo Maizano, corrispondente a Londra del Sole 24 Ore. Stanno reagendo bene i mercati, hanno reagito bene almeno all'inizio della mattinata, adesso c'è un lieve calo, soprattutto a Milano. Di questo parleremo tra un attimo, come sempre, con l'appuntamento della borsa, e poi torneremo sul referendum scozzese per fare il punto sull'Europa, perché si avvicinano appuntamenti importanti anche per la Catalogna. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sono iniziati i raid francesi sull'Iraq, colpito questa mattina un deposito logistico degli jihadisti. Dopo il no alla secessione della Scozia, Cameron promette maggiore autonomia anche a Galles, Irlanda del Nord e alla stessa Inghilterra. G8 e appalti, 13 milioni di euro sequestrati all'ex presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici, Balducci. Arrestato il latitante che era sullo scooter con Davide Bifolco, il 17enne ucciso a Napoli da un carabiniere. Là il sindaco De Magistris, come avete sentito anche in effetto giorno, vuole allestire un luogo della memoria. La borsa. Borse in diretta. Francoforte guadagna lo 0,23%, Parigi in calo dello 0,18%, Londra guadagna lo 0,61%, Milano è negativa, FTSE MIB meno 0,26%, FTSE O'Share meno 0,27%. Isabella Tasso, Radio Cori, il Sole 24 Ore, ciao, buongiorno e bentornata. Buongiorno. Allora, sembra che il sospiro di sollievo che si era sentito stamattina sui mercati dopo il referendum scozzese si sia un po' esaurito. Sì, le borse erano partite bene, ma anche molto bene, sulla scia della vittoria appunto del no al referendum sull'indipendenza scozzese, poi hanno ridimensionato i guadagni con Milano e Parigi che si sono riportate sostanzialmente vicine alla parità. A contribuire al rallentamento, secondo una parte degli operatori, l'annuncio ufficiale dell'Eliseo dei primi bombardamenti da parte dei caccia francesi contro le postazioni logistiche dell'ISIS. Come dicevi Simone, Londra resta comunque in rialzo, fa più 0,6, vicina ai massimi da 15 anni. L'attesa è ora tutta per l'avvio di Wall Street e l'avvio a Wall Street delle contrattazioni sul colosso cinese dell'e-commerce Alibaba. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La cronaca innanzitutto che ci arriva da Firenze, dove ci sono stati allagamenti e problemi per un'improvvisa pioggia e grandine si sono abbattute sulla città, infiltrazioni anche a Palazzo Vecchio e al Museo di Santa Croce, alberi caduti in varie zone della città, sulla Firenze Pisa Livorno e sulla Firenze Siena, una tromba d'aria che ha causato problemi nell'Empolese. Ma noi adesso torniamo alla Scozia, o meglio alle conseguenze europee di questo voto scozzese. Antonio Villafranca, responsabile area Europa dell'ISPI, benvenuto e buongiorno. Villafranca. Buon pomeriggio. Allora, la domanda verte naturalmente sul che cosa succede adesso, nel senso che di Scozia nel corso della trasmissione abbiamo parlato ampiamente anche della reazione di Cameron, di quello che succederà, diciamo, in Gran Bretagna e nel Regno Unito, però c'è la Catalogna ad un passo e che adesso sogna l'indipendenza. Ma non c'è dubbio che il referendum ha fatto in modo che che il dado fosse tratto. Ormai esiste un precedente in Europa, è appunto il precedente scozzese, ed è inevitabile che altri movimenti indipendentisti in giro per l'Europa ovviamente chiedano di ripercorrere appunto l'esempio scozzese. Però farei dei distinguo che sono molto importanti. Nel caso scozzese esisteva un escamotage costituzionale per rendere possibile il referendum. Di fatto, come sappiamo, la Gran Bretagna ha una costituzione non propriamente scritta e sicuramente non così stringente come le normali costituzioni dell'Europa continentale, e di fatti c'era stato un accordo con il governo della Gran Bretagna e ovviamente il governo, il First Minister della Scozia, per fare in modo che il referendum si traducesse nello scioglimento dell'atto d'unione tra l'Inghilterra e la Scozia, che è datato diciamo più di 300 anni. Ecco, questo escamotage giuridico costituzionale non sarebbe possibile ad esempio nel caso della Catalogna o in altri casi in giro per l'Europa. Quindi sicuramente il dado è tratto da un punto di vista politico, ma bisogna tener conto anche dell'aspetto giuridico. Naturalmente, giuridico e costituzionale. Tra l'altro il Parlamento catalano ieri ha approvato una risoluzione a favore della convocazione di un referendum per il 9 novembre, risoluzione che impegna a promuovere il referendum indipendentista con tutte le garanzie democratiche. Il governo centrale spagnolo sta preparando appunto un ricorso alla Corte Costituzionale. Quali altri scenari e in quali altri luoghi soprattutto li vede Villafranca, questi scenari? Beh, ce ne sono diversi, sempre rimanendo in Spagna c'è sempre la questione dei baschi, quindi la Spagna veramente ha più fronti aperti. C'è la questione in Belgio delle Fiandre, c'è sempre, addirittura lì non, si tratta di dividere proprio in due il paese tra la Vallonia e le Fiandre, ma potremmo anche arrivare fino a casa nostra appunto con le richieste avanzate dalla Lega e anche dal governatore Zaia, ad esempio per quanto riguarda il Veneto. Quindi io direi veramente il segnale politico è stato importante, è evidente che l'eventuale vittoria del sì avrebbe avuto un effetto ancora più galvanizzante, però non bisogna cantare vittoria, questo lo dico per i movimenti separatisti, perché ha ragione assolutamente il governo spagnolo, non esiste una via costituzionale per la separazione della Catalogna, quindi veramente bisognerebbe vedere. È vero anche Villafranca, che se uno convoca un referendum consultivo e in questo referendum consultivo ottiene una vittoria l'indipendenza, è un segnale inequivocabile per un governo centrale, difficilmente ignorabile. Prima bisognerebbe vedere se appunto la Corte Costituzionale, nel momento in cui venisse poi ovviamente adita, se permetterebbe appunto un referendum di questo tipo, e in ogni caso sarebbe consultivo. È ovvio, il governo nazionale ne dovrebbe politicamente tener conto, ma questo credo che si risolverebbe casomai in un rafforzamento del decentramento dei poteri, ma difficilmente prevederei uno scenario poi di vera scissione, ecco, rispetto allo Stato nazionale. La ringrazio, grazie Antonio Villafranca anche per la chiarezza. Ed è tutto anche per Effetto Giorno, effettogiorno@radio24.it per scriverci come sempre. I ringraziamenti: Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggin in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. La trasmissione torna lunedì alle 13, noi ci risentiamo tra un attimo con GR24.